direi due, se muore, se hai capito, provi, però se non è grande devi fare, dovrebbe imparare a musica, e lì non si scappa, hai capito, perché vedere i tuoi figli. Ok, quindi lui sta piovendo molto a Sassari. Uno cosa fa? Si mette nella stessa condizione e lo fa. Però casa non è che va a criticare, d'altronde ti sto togliendo soldi da tasca. Però sai, il sassarese è così, cioè piuttosto che imitare o comunque mettersi nella condizione di fare lo stesso, preferisce distruggere, a volte essendo anche offensivo, e quello mi gira un po' le balle, ma lasciamo perdere, va, intanto ti ripeto, se l'invidia fosse rogna, gente che ci sta grattando ce n'è. Comunque tu, se hai bisogno di una mano, lo sai, la più la sera sono libero, quindi qualche sera ce lo facciamo, la giungere più insieme. No, no, qua subentro io, portami al massimo. Massimo porta, ma già lo sapete che non c'è problema. Già lo sapete che non c'è problema, ma poi lo dico pubblicamente, ma proprio per, giusto per farvi capire, costa 150 euro, cioè costa meno di un baracchino a Giummai. Ma dico, ma adesso questo non è riferito a voi due, ma dico a quelli che hanno tanto parlato, basta farlo. Io ho detto, se ti vuoi dire il suo coglione, te lo dico, te lo dia. Se hai bisogno, ti siamo una mano, io sono uno di quelli molto attenti, ma veramente, tipo un cane, ce l'hai presente? È allucinante. Poi, ti siamo un cane per scappare, vengo lì. L'importante è che non sotterri l'osso, Luca, ma già lo sai che non ci sono problemi. Già lo sai a che mi sto riferendo. Comunque, la gelosia è cosa brutta, mamma mia quanto è brutta, è come l'invidia proprio. Io non so manco di vista e parlo perché non c'ero. C'ero al momento, ma poi non ce l'ho più, c'è proprio qualche passaggio. Dopo mi sono, non mi ricordo cosa stavo facendo. Un attimino, fratello, sono venuti, i marmocchi sono venuti, un attimino. Non c'è problema. Oh, allora, il discorso è, cioè, lo Smith sarà maletta, 500 gigabyte. Allora, il discorso è, vai a rubare, perché va a rubare qua e là, va a pescare, cioè, adesso prende il ricci, ma cazzo ne ha preso troppo, non va bene. Cioè, uno non può fare niente alla fine. Se vuoi prendere droga, ma perché non se ne va a lavorare? Allora potrebbe essere anche un lavoro, mi volendo, perché il tempo ce lo perdi, la candidatura l'hai pagata, cioè guarda se è stato pagato, in più per scendere nei posti dove tu vai a cercare queste cose, no? Ci vuole anche la benzina costa, consumano le gomme, e consuma l'olio, e il tempo, tutto insieme, se ti paghi i conti, ce ne sono spese. I dubbi, oggi ce n'erano altri due nello stesso posto, uno che stava, e ha trovato anche qualcosa di buono, però per dire, ma sai, uno se come succede nelle arti giudiziarie, se uno va lì e approfitta del momento di disagio di una persona, cazzo, e gli porta via la casa due soldi, oppure i beni che vengono battuti all'asta, se li compra davvero per pochi spiccioli, allora sei uno sciacallo. Ma dico, se vai a cercare cose che non hanno un proprietario, perché ho trovato delle monete che risalgono a un po' di tempo fa, ma cosa avrei dovuto fare secondo la testa di questi? E poi se gli dici, ma perché, cosa ne dite, le dividiamo? Allora sì, però se hai capito te le tieni, non va bene, sei un ladro, sei uno sciacallo. Tu, qua c'è un amico vicino a me, riesci anche quest'estate, riuscivo anche in spiccioli a superare le 120 euro di spiccioli in una serata. Guarda, io ti dico che oggi ho trovato un anello rotto d'oro con dei diamanti, ma lo dico pubblicamente, non ho problemi, e dopodiché monete da un euro ne trovi a buttatura, devi avere solamente pazienza. Lo so, avete avvicinato a me questo ragazzo, e questo ti fa concorrenza, ne ha due, se ne ha comprato un altro ancora più migliore. Uno so sta vendendo, ti interessa Luca, so sta vendendo uno di quelli. Sto dicendo, guarda, ne ha oro, ne ha buzzeppa questo, ma è già da tanto lo fa e non sta lavorando. E comunque guadagna qualcosa per dare a mangiare i figli, e ti dico, ci sono state delle serate che ha superato, ma adesso mi hanno parlato, vabbè, sarà un 3-4 giorni fa, ne ho parlato. si scava, si cerca però piano e se si trova bene. Quindi siamo una mano, cioè uno più in più. Non c'è problema, diciamo, ti rispetto, non va fatto, non è, è un passatempo, fra l'altro ti diverti a ridare e rilassa tantissimo. Rilassa molto e nel momento in cui riesco a tirare qualcosa fuori, perché no, dico. Sto comprando pure io, Alto, perché come vado in pensione devo andare a buscare qualcosa anche io. Infatti sono in trattativa con Antonio, si chiama Antonio come te questo qua, c'è capelli pittinati allo stesso modo tuo, la prendi vita, solo si mette una cuffietta quando fa a fare l'inverno, d'estate mi pare che si mette un berrettino lo stesso. C'è capelli pittinati come tu questo ragazzo, e più o meno qualche centimetro più basso di te, non di tanto, un pochettino più basso di te, corporatura più o meno come la tua, l'avrei anche visto in giro cercando anche a lui. C'ha una foto di fotofietta, mi pare che una cosa del genere c'ha adesso questo ragazzo, scura. Forse ho capito chi è. L'unica cosa, bisogna stare attenti alle zone interdette, perché ci sono delle zone dove non puoi andare, che sono quelle archeologiche, chiaramente, perché se ti trovano lì ti arrestano, ma così, senza neanche pensarci. Sì. No, ma a volte è capitato d'estate, c'è ancora gente al mare, e lui già iniziava a cercare, no? E qualcuno l'ha chiamato, guarda, dice, ho perso l'anello, più o meno, e è riuscito a trovare l'anello, lo sai, gliel'ha controllato e gliel'ha trovato e gli ha regalato 50 euro perché gli ha trovato l'anello. Ti ripeto, poi non lo fai, cioè non è che sei così accanito, certo che se ti capita una fortuna, a me è capitata avanti ieri e ne valsa la pena, perché mi sono recuperato lo strumento un paio di volte, anzi forse anche qualcosa di più. E poi c'è un bel brillantino, ha trovato un bel un brillantino, chissà che parole c'ha questo da quei giorni scorsi, ha trovato. Beh. Però le monete mi pare che le pulisce con qualche acido, perché sono come ossidati, c'è una specie di cosa che le pulisce, diventano lucide. Il CD Bang, basta il CD Bang e va benissimo. È positivo, no, ma poi ti faccio concorrenza pure io, perché me la compro pure io, me ne vado a cercare pure io. A me poi quello che dice la gente non me ne frega un cazzo, vado a cercare e mi faccio i soldi pure io, mi guadagno le 20 euro pure io. Non sono 20 euro, ma non sono 20 euro. E comunque anzi, più si è, anzi si può organizzare una cosa, uscire in gruppo, più si è meglio, e più si trova, guarda. Attenzione a tu, ci sono giorni che tu non trovi neanche 5 euro in valuta, sia in monete, quelle minchiate. Ci sono giorni che ti fanno bella giornata, ma ci sono giorni che non trovi niente, proprio nulla, Ci sono anche quei giorni lì, attenzione, Fai una camminata, ti rilassi e dimagrisci. Fa bene, a parte che poi ti viene mal di schiena, è un po' inchinata questa cosa, è così da una parte, come muovi a lei muovi la testa, ho visto, hai capito? Sembra come muovi la cosa, muovi la testa, l'hai notato, o te ne sei accorto? È normale, l'unica cosa è che bisogna evitare giornate come oggi che c'è molto umido. E va bene, riprendi Gianni. No, Gianni, siccome è nel letto, è l'ha fregato, hai capito? È l'ha fregato. Allora, sono con Marco Rino e ho voluto ascoltare. E ci ha messo le cuffie mie. Ho detto, papà le prendi. Ah, positivo, ciao Marco Rino. Allora, non ti ha sentito, ti saluto. Ciao. Ciao Marco, ciao, fai da bravo, adesso so che sei diventato più grande e molto più bravo, l'ho saputo perché c'è stato un uccellino che passa, che vola, che scende da Sassari sino a Plattamona, Plattamona con l'ottore, se poi passa qua e mi riferisce tutto a me, capito? Vabbè, non ce l'ho ascoltato perché sono in cuffie io adesso, le ho preso le cuffie. Comunque già si stavano da fare, ha già preso la cittadinanza alla Caratì, ha fatto l'esame, è contento che ha fatto il diploma. Va bene, ma dimagrendo sta, allora sta dimagrendo adesso. Ma mi piace sempre, ma sì, sto allungando un po', ma no, è sempre di buona stazza. Sa che me l'ha preso? Ha preso a me, uguale a me. Il bottino, prima era diventato lungo, lungo, lungo, prima era un po' robustello, adesso sta diventando magro, sta allungando, sta diventando lungo, lungo, lungo, ma non può arrivare, ed è piccolo, sta diventando fine, lungo, lungo. No, subito, scusate un attimo, da prendere un bicchiere d'acqua. Sì, ma già no. Cascaggio già da un po' di tempo, e tra poco viene a fare pallavolo perché sta diventando alto, troppo è alto quanto è me e non c'è neanche 10 anni ancora. Guarda, già l'ha fatto un po' gruppo, l'otto è questo, quell'altro, lui, fino a quando è possibile, decidono, si ferma in uno sport. Ma sai cosa ti dico, già? Allora, i Milan hanno fatto tutti gli sport, tutti, ma ne ha fatto parecchio, l'ho fatto, c'è stato Mauro era bravissimo, Mauro faceva lotta greca romana, così si chiama, lui ha combattuto anche nei, è stato anche nei, ha fatto anche i mondiali, non i regionali, no, lascia perdere i regionali, ha fatto gli italiani, ma ha fatto anche i mondiali, Mauro, addirittura. Era una buona posizione Mauro, poi aveva smesso, si era fatto male, mi pare, a Perugia, aveva fatto due combattimenti, due vinti, il terzo si era fatto male, così era un braccio, si è fatto male a un braccio e poi da lì non ha voluto più continuare. Vabbè, può succedere facendo uno sport e farti male, specialmente quando sono fatti marziali, così è più facile che si possa fratturare, fare. Di solito non si colpiscono, perché io li sento questi turni, non posso dare il colpo senza colpire l'avversario. Sì, no, allora se tu mi dici a giocare, a fare, a gareggiare, quando sono ragazzi in coso, no? Ma quando inizi a gareggiare, a fare questi diciamo quelli che italiani, regioni, quelli più alti, cavolo, ogni zucco quando arriva a terra, ma lo sai come c'aveva la carne nelle braccia, la volta delle gambe, secondo me, come andava, ci si vedeva la carne nuda, ti toglieva la pelle, secondo me. Cazzo, lì era una lotta. È faticosa, una lotta. Io mi ricordo nei mondiali, a casa del maggio di Cato, sai che io non me lo ricordo, se era riuscito a entrare, si era giocato il terzo posto, mi pare, il terzo o quinto posto ai mondiali, questo non lo ricordo di preciso. Quindi era bravo, è un gemello. Un gemello poi non solo aumento parete, solo aumento peso, ma sempre roba così, non ha fatto male. Invece questo no, quello faceva l'ha fatto per un po' di tempo e cavolo. E combatteva oggi con pesi così, con pesi dei chilogrammi 90 era lui all'epoca. Quindi combatteva e ne aveva molta. Non ricordo quel tempo qua. Una saetta, ho fatto le fotografie. con tutte e due le gambe in alto, volando sembravano, dando il calcio. E cosa deve vedere? Una montagna di muscoli, Mauro. Poi che ha smesso, guarda cosa, la vita messo giù sottili. Perdi tutto, quei muscoli, guarda, quando tu fai sport e poi lo molli, hai visto come è diventato, Mauro? Il cicciottello, come sono diventati i civili. Perché se metti così, era una montagna di muscoli, Mauro. Mauro non era una, non era stato, non lo, non lo metti a, non metti a spalettere tanto facilmente, non è che lo butti, capito? Adesso non lo pratica più, però non è che si sa difendere abbastanza bene. Mauro, calcolo, ti fa, ti butta per terra così, ti tocca tutta e ti per terra, Cazzo, era bravo, sto dicendo, è arrivato ai mondiali, a combattere nei mondiali lui. Spero che non abbia continuato. Anche se era così bravo, magari poteva riuscire ad arrivare anche il primo, e chi lo sa. No, diceva, le diceva proprio, le buttava, poi hanno fatto anche gli italiani lì a Perugia, ha fatto 3 combattimenti, e tanto si è giudicato, lì si è giudicato il 5° posto, perché si è dovuto mollare e non ha fatto 2 combattimenti dopo, i primi 3 li ha vinti, subito li ha vinti subito, ha vinto uno contro Romano, poi non so dove, ma li ha buttati su, no, cioè, non ho messo molto a terra nei combattimenti con quelli italiani, non regionali italiani. E al quarto invece non so cosa sia successo, è che proprio il braccio se l'è rosso fuori, proprio ne è uscito rosso fuori, capito? E da lì non si era fermato, non ha continuato più. Io stavo cercando pezzi di telefonini a sulle lat flex. Sì. Allora, questo possiamo riparare. Questo non so perché non accende. Devo vedere un po' se è questa la batteria. Forse è un'altra, un altro modello. Perché l'ingresso è questo, giusto? Va bene. Mi sono attenti. La batteria è carica. Il flat è diverso. E niente, va bene. Non so, vediamo un po' che vale, va. L'ordine è andato costa poco, 3,60€. Allora lo so, io non mi perdo il tempo con il coso, con il chiacchiere con il telefonino, intanto mi danno sempre la azienda e a volte quelle più complicate le passo sempre ai miei figli. E io mi tengo di più semplice, non me ne frega niente. Devo dire regalo? Sì, a me io ne ho tante dell'azienda, io la giornata non mi finirai. Non so se le regalano a loro, a me me le passa l'azienda, capito? Me le dà l'azienda e stanno sempre cambiando schede e telefonini, se no le diano queste aziendali, le ho un'infinità e altri, me ne ho tenuto solamente, adesso ne ho lasciato due di quelle aziendali, gli altri, uno l'altro ne avevo quello che poi fa il video, poi fa tante cose, lo dà l'altro mio figlio. Perché esatto, me ne danno una, adesso ne ho uno, sì, è semplice, con due schede, cioè quello lì, c'è la scheda aziendale e la scheda mia, e mi sono preso quello, poi gli altri no, ce li ho così lì, dentro la scatola e ce li ho lì, non è che, e li do quando servono i miei figli, qualcuno ha i miei nipote, li do a loro, intanto ce li danno ogni pochi mesi, ce li hanno i telefonini. Ma fate c'è il contratto con qualche ditta? Sì, con queste cose ti danno i telefoni, no? Perché non li coprono, glieli danno questi telefoni, capito, glieli danno. Quelli più belli, più cose se li tengono loro e quelli. Ma anche a me me l'hanno dato, anche questo mi va bene, questo mi ha dato adesso, poi quell'altro che era molto complicato, non era complicato, era c'era tutto, di tutto, capito? Un bel telefono e internet, poi potevi fare tutto quello che volevi e l'ho dato a mio figlio, infatti ce l'avevo lì e gliel'ho dato. Poi ti puoi vedere io e te se come si dice viva voce, vuol dire che no, video chiamata, se potevamo, se tu ce l'hai vicino si potevamo anche vedere. Quello che c'ho io. Anche tu sei, vabbè, faceva anche quel coso lì, capito? Sì, io voglio gli ultimi, adesso dell'ultima generazione e quasi tutti fanno queste cose qua. Mi inventeranno di telefono che fanno anche il caffè fra poco. Sì, ma io non a volte mi vuole dare quelli a stare con le dita, così scorrendo, c'è cioè, tutto, poi fai internet, puoi vedere la satellità, ma come si dice, dal navigatore, satellità, di tutto fa. E una cosa troppo complicata, non quelli del cazzo sempre, non li voglio mai, mi prendo quelli più normali. Non c'è tecnologia. No, io addirittura nella scheda aziendale c'ho tutto, internet, tutto qua, non la adopero io. La scheda mia aziendale c'è tutto, posso fare tutto quello che voglio. Loro pagano, ogni due mesi pagano, mi pare che adesso 55 euro. E c'è tutto in quel telefono, me. Io allora dopo se chiamo qualche cliente e basta, però per così me non la adopero mai, adopero il mio, non sono di quelli. Infatti anche con ogni volta ci noi paghiamo 55 euro 54 euro ha detto ogni due mesi per ogni telefono per il telefono che ci deve aziendare un contratto che c'è ricompreso internet e tutto quanto c'è, però io non ne faccio uso di queste cose. No, già come amico lo stesso un ragazzo che conosco noi, ha posto la moto, è una cosa che acciappa e teniamo a poco i mini impianti serio in garage, certo, poi ho trovato queste casse belle, poi le porto via domani. Sì, basta andare in piazza di Sini, le buttano di roba. Sono le casse chiuse, 300 watt l'una, saranno mi impianto guai, io sono queste qua e lui mi dà le sue. Vabbè, me saranno perché cazzo gli faccio un po' di lavoro, se capita magari faccio un esempio che sono a casa, che ho domenica, l'estate non lo so, quest'estate penso che mi trovo poche niente. Ovviamente se ho un mezzo per poter andare al mare, in piscina, come sono andato l'anno scorso. Però comunque se mi capita che mi chiama di domenica ci vado, lui mi ha dato il filo accelerato e vai, lo cambio, non ne ho problemi. Poi per i soldi lo stesso mi fa aspettare. Infatti gli ho detto guarda scusa, io me ne sto approfittando, però cerca di capirmi, no? Una mano la malata, se no la mano la faccia. Ah sì, no, ho avuto qualche problema, ma io era mezzo gozzo muro, non me la tutto è. Cavaga, mi sa che funziona. È fatta, anche in coppa. Siamo sempre number one. Vinto in Francia, adesso vanno a tornare loro a Torino. Ciao zio G, come stai? Abbastanza bene, diciamo abbastanza bene. Così, meglio così. Non hai sonno? No, io mi siedo nella sedia, mi siedo nella poltrona, non mi siedo, non mi siedo con un dito, a parte non ci riesco. Bisogna permettere nel letto che io stia male, ma male veramente. Allora non c'ho d'abitudine, non ci riesco, no. Non riesco a fare nulla a mettermi nel letto, se mi metto nel letto non riesco né a leggere, nulla, mi devo sedere, posso fare tempo di una galleria, però se mi metto nel letto non riesco a fare niente, nulla, né a leggere, neanche a parlare da baracchino riesco se mi metto, e ce l'ho a fianco come la brandina, no, non è per me. Oh già. Una Vittorio all'otto per il gioco, dobbiamo consegnarle proprio per un microfono. Ho detto cazzo, ma non l'hanno sbagliato, invece era Gianni, lo sto dando a me. Il proprio per un microfono? E allora, mi ero anche dimenticato. E poi mi ha portato, siccome mi ha tirato un cavetto per una radio, no? Un cavetto originale che è venuto per 780. E quindi me l'ha portato a casa stasera. E ha citofonato, SDA, dobbiamo consegnarle il cavo per un microfono. Ha detto, boh, cazzo SDA, ma non l'hanno sbagliato. Ma quando mi dobbiamo consegnare il microfono, non lo guardo. E vabbè, ha detto SDA, boh, invece ne ha alzato della rete. Ma se ne tenere varie. Ah, Vittorio, non ti ho capito cosa potrebbe essere prodotto a Vittorio. Oh Vittorio era citofonato SDA, agli tubo, non aspettava niente, poi sono lutto. Invece uscendo in laboratorio mi ha portato il cavetto, capito? E per che cosa qua? Il cavetto di alimentazione per una radio originale Kenwood, che me ne mangiava uno. Ah, te l'ha fatto lui? No, originale, 25 euro. A lui gli ordini. Tutto ordinario, allora, se glielo dici te lo ordina lui, sì, c'è anche lo sconto, costava più di 25, e l'alimentatore non me l'ha ordinato lui. Ragazza, bella, se si così pallotto si dia, ma che te l'ha dormito, e ci ha pigliato, detto, ci fanno piano, è alzato l'ascensore, che te l'ha detto, te ne varia la massa, te ne varia, te si dia. Vittorio è sempre scherzoso. E allora, sempre un più balle, ragazzi. Oia. Va bene, avanti a chi tocca, chi c'è qua? Un carriere. Gino, Radio Vulcano, ovvio. Gaffa. Oh, se te lo vuoi comprare, ce l'ho amico io, uno di quegli attrezzi lì, Luca. Ma questo lo stiamo vedendo molto, perché lui ce l'ha comprato un altro più... come si chiama, più con altre cose che c'ha più affidabile, diciamo, dai, e se lo vuole vendere, ma ne ha tre addirittura, ne ha tre, e uno se lo vuole vendere, però non so cosa possa costare, non è la minima idea cosa costi quell'attrezzo lì, però ripeto, se ci sta a fare uno, lui lo sta lavorando e riesce a tirare avanti, a campare la famiglia, dai. Ti ho detto che c'è stato giugno che si fa anche 120 euro in monete, da 1 euro a 2 euro. Sì, non lo metto in dubbio, il discorso è, io sono complice, come scendo? Non posso scendere il morto, non esiste, no. mi sono andato a furare, mi sono visto, guarda. Però d'estate ho detto, di me non c'era meno ancora, voglio una cascina, voglio una carta, una mascia. Ma chi non ha ancora in malattia, ma se non sta a prendermi, ma se potevi prendere un caffè al bar. E cioè, ne avevo una scatola tutta piena di braccialetti e anelli, una scatola di inizio di botte piena alla via, piena, una scatola, no, piena a ponte, ma insomma ce n'era abbastanza, tutte le cose in oro con brillantine, cose, tutte perse così nella sabbia, cose così, e avevo una scatola di botte nella via, ragazzi. E c'è la giornata, auguria, come sempre, come hai detto tu, però, se uno sei furti dove andare, gli perdono oro e monete soprattutto, sai che loro c'hanno i biglietti in quello, al giro, non ha senso. Cazzo, non trova gli Antonio, ne volete i biglietti, cazzo, no, prima di Antonio venite in giro qua, se uno che a me la ottava, che lo fa, è quello che lo fa, però lo fa da anni, ma no, adesso in questo periodo ci va, ma trova poca cosa. Migliore che la roba che porta al mare con le mareggiate, e sulla battigia, diciamo nella battigia trovi dopo le mareggiate monete d'oro eccetera eccetera. Guardi che modo di esempio, ah, già fa niente, ma non penso che andare in Enogafura le monete da mare non sarà parare, le monete non le raggiungete così facilmente, se sono là con bello ma arrivi dai occhi, bisogna dai già presto di dire, ma l'estate se non le prendono i bagnanti, hai capito? Mi lancio una, vede, se ne ha trovato limonette d'oro. E allora, a parte quello c'è anche il culo. E fortunato, sì. Ma ci ho fatto senza tu un narino, lo so qui. Sì, ma lo so che se sei giorno fortunato le trovi. Anche questo le trovo a me. Nel caso delle... Capito? Ma c'è stato giorno, è andato male, ha fatto 50 euro, ha fatto 60 euro, 70 euro, la sera mi ha rubrefo, da cui si ritira niente, da male, qui già anda, che ancora niente in mare, mi anda cosa girava questo coso e ritira tutti altri minuti, muore la munciglia e questa ritira. Non lo so perché te lo sto dicendo, perché Antonio dopo che l'ha trovata è venuta a casa e me l'ha fatta prendere in mano le monete d'oro che ha trovato, l'anello, quei brillantini, tutta la roba che ha trovato, l'ho preso in mano io, l'ho vista proprio e abbiamo guardato su internet il valore, addirittura le monete che ha trovato costavano 220 euro. Sì, è stato un po' di dubbio, lo so, anche questo che dovrebbe avere accanto, quindi tutto, monete, d'oro e anelli e braccialetti, caso per mai d'oro, ma non lo sai che non aveva questa scatola. Poi a volte vai le porta queste cose, le cose le scioglie, le fa, però non è già mattino, sono già fatti quelli che ha trovato in Gattuisi da Uti, che diceva che era scatola, non è una cosa di una villa. Comunque adesso loro hanno, questi che vendono loro hanno l'incarico, l'ordinanza, non l'incarico, l'ordinanza dalla polizia di mettere il documento di chi li consegna con loro che consegnano e fotografarlo. Ma non lo so come fate la maglia se già si arrangerà, quando uno dice lo fa per lavoro, direi che per un bel lavoro può fare un rifugio ad entrare in Italia, il vino, ma già lo trovano il modo, penso io, di farlo, lo trovano, infatti quando è andato già ho fatto vedere, mi ha trovato questo brillantino bello, un brillantino, un anello, un brillantino, bello, bello, sono le parole già, mentre che è così, no, vado a fare questo, tira avanti la famiglia così, facendo questo lavoro qua, fa questo lavoro e niente, le monete quelle che non sono pulite le trovo perché sono da parecchio tempo, non so che cosa, insomma, dicevo, detto che gli passa la fattura, non lo so, per me diventano lucide, non vale. Una volta sono andato a fare pesca subacquea, ho venuto, praticamente ho trovato questo bracciale con le maglie di quelle di inglesi, grosso, pieno, proprio oro pieno. Ho già vingato oro, che allora c'era solo quello di via Murumi, l'ho fatto pesare in mezzo che vale 380 euro. E io ho detto di darmi di subito i soldi. È positivo. Vabbè. Signori, io vi saluto, oro non oro, metal non metal, ognuno va di chi su le piazze, si arrangia, a me mandava chi su che fatto io. Ciao a tutti, buonanotte, me ne vado a nanna, a ci sentire domani, ciao, passo e chiudo. Ciao, ciao, grazie. Saluto e me ne vado a nanna, non me ne vado perché mi sono stato presto. Non hai di mappare un po' di televisione, raga, mumila così mi trovo. Domani lavori? No, domani mi ha messo a recupero. Ma allora, mi ha chiesto questa cortesia. Nessuno è questa da Briani, mamma mia, niente, va bene, se diciamo così. Sabato c'è da lavorare e tutti stavo facendo storie. Stavo facendo storie, e va bene, se faccio io. C'è da andare a Palau, se no se mi piace da fare a Palau, lo faccio io. E faccio libero domani e lavoro sabato. Ah, ecco, sta recuperando. Ma là non vuole recuperare, che cosa ha fatto, lui ha pagato 50 battenti, tu ha detto che chiede la vita, non paga un cazzo. Ehi, ma trova un nuovo video qua, no? Cazzo, chiavi di macchina. Guarda, l'ha trovato. Aspetta. Ha trovato 2 euro, 58 monete, tutte da 2 euro. Poi ha trovato da 1 euro, 136 monete. Dice come sono. Poi ha trovato 50 centesimi, 75 monete. Tutti i pesi ha trovato. Da 2 euro, poi 20 centesimi, ne ha trovato 135 monete. Con metal detector. Chi è Antonio? Oh, su cosa? Su YouTube c'è. Ah. Sì, ci sarà che ha trovato anche di più. Se tu sarai quello di così, se la roba che trova. Sì, quello nemmeno che trovava l'estate. Erano 120 euro, per poco che andava il periodo estivo che c'era il mare. Quando c'è di Maria andava lì a Catamona, verso Alghero, andava lì, faceva tutti i giri. Che meno che faceva era sui 120 euro, poi quando andava bene faceva di più, ma meno la media era quella, il sotto di 120 euro non scendeva, la serata. Sono cose che mi davano anche fortuna. Sì, dopo andavano via le bagnate e verrai tu pronto che sta Urugosso. Adesso io una volta sono sceso a Platamona e stavo mettendo le canne e alle 8 metto sempre i portacanna, come se ne va la gente e poi le piazzo, no? Non le piazzo prima che se ne vanno tutti quanti, però comincio già a mettere per prendere il posto. E c'erano questi due anziani con metà del testo che stavano cercando, e quando che faccio qualche cosa, no, noi cerchiamo quello che perdono gli altri, ci facciamo le ferie ogni anno un mese qua, noi siamo di Genova, dice, ci facciamo le ferie un anno con loro che troviamo, ci paghiamo albergo da mangiare tutto quanto, ci facciamo le ferie bene e poi ce ne torniamo di nuovo a Genova. Perché così? Ma ha detto sta giornata che già avrà fatto musica del tuo, non lo so, però è sotto dice, perché gli ho chiesto proprio martedì, ha detto ma quanto riesce a fare, ha detto poi 50 euro se si sta a buscare, io dico, ma 50 euro no, il minimo che ho buscato sono proprio il minimo, ma proprio il minimo. di colpo inclinato, appena curvate con la testa, muove il coso, ti viene la tambaglietta da cuore. Comunque, se trovi la cosa giusta, deve essere ricco, Sì, quello sì, quello è vero. Lo so. Fai una cosa per un'altra, cosa vuoi che ti dica? Non paghi il tasso, non paghi niente. Se lo vedi mai a Di Max, quello che dice you baby, quello lì, quello trova di tutto, reperti di guerra, però lui dà il 20% su quello che trova, chiede di aprire e di scavare nel terreno, tutto ciò che trova, bombe a mano, caschi di guerra, tutte queste cose qua. Positivo, c'è la bomba laggiù con quello, ma ne cava tu carica ne camera la spoletta, boom, e colpeggerà la bomba. Non so quanto ne ha trovato nella guerra, anche perché si è avvenuto, ha trovato di tutto e di più, tutto, addirittura anche il porta preservativo in oro. Lo so, effetti di vero, ha dato la ciaspica, così, non è stato i monetti, no, ti segnala la bruna dell'opera, da quello che lo calta, e in casa poi non ha sinchivi, Antonio ti dà sia la profondità che il tipo di metallo, ma secondo il metallo che so fa un suono diverso. Lo so come, lo so. Pagando tutto di carta e l'unione che c'è chi sarà caro. Positivo, lo so, dopo ti compagno un baracchino, grazie, ti compagno una cosa di te, infatti adesso mi cosa faccio, mi vendo questo tattornecco, compreso di microfono, così questo aggancio così, e mi compro uno di quelli nuovi. Ho un po' di soldi e me lo ricompro nuovamente il baracchino, e così c'ho anche quello lì, mi faccio i soldi per comprarmi il baracchino. Voilà. Capito già? Non parlo. Non parli. Non parlo, perché quando te l'ho chiesto ho detto che non lo vendevo. Ho già deciso stasera, se lo vendo e mi compro uno di quelli lì. Quando trovo un bel d'oro, un bel monete, un bel coso che arriva laggiù, che faccio i soldi, me lo ricompro nuovamente. Così c'ho il baracchino e c'ho anche le come si chiama. Il modo di pensare, e così di sotto non c'è posto via. Mi guardo nei canali di sotto. Capito, non c'è. Mi guardo dei canali di sotto regolati via. No, io mi toccati, no. Però allora, siccome so che si possono regolare anche sia sopra che sotto, si possono regolare sopra, e poi me l'aveva fatto quell'altro apparato, un apparato me l'aveva fatto il corso, Roberto. Si potrà fare anche qua, però non lo voglio toccare più, per come l'ho regolata questa radio, non la voglio più toccare già. Non la voglio né aprire, non la voglio aprire per nessun motivo, non la voglio toccare. Le tarature che gli ho fatto mi stanno bene. Capito? L'ho fatto che mi stavo ascoltando, mi pare Giulio, qualche un altro, e le ho fatte così. E niente, infatti poi gliela passate perché erano già alti. E niente, può andare di radio ancora parecchio questa, non l'ho aperto io, non l'ho aperto io. L'ho lasciato io così, se no può andare ancora parecchio di radio, Aspetta, a volte ti tocca. Se mi essere già vi dico, io mi sono aiuto a letto qualche giorno. Sì, buonanotte, dai, sentiamo, ciao Luca, se ci sei ancora, buonanotte. Buonanotte già, buonanotte, io mi stavo chiedendo da prima, mi sono trattato. Buonanotte anche a Luca se ce l'hai. Ciao.